come si fa a chiedere all'impresa scientifica di prevedere cose che sono strutturalmente difficili da prevedere? Se si imputa a dei modelli scientifici di non aver previsto in un tempo ben determinato un evento catastrofico, si richiede alla scienza quello che allo stato attuale perlomeno non può dare. È una vecchia concezione positivistica della scienza. Allora, siccome la posizione esatta non c'è, si mandano in galera quelli che non sono riusciti a farlo. Dal punto di vista, direi così, più in generale filosofico, mi sembra un gravissimo errore, una sovrapposizione di poteri che porta poi come conseguenza di fatto allo spegnimento dell'impegno dei ricercatori stessi.